questa cos'è? È un fungo, non si capisce benissimo. Funghi. Qui a Pisa io ho rinunciato funghi a stabilire con... che cosa sto mangiando, mangia, da molti anni. Si mangia e basta. Non si chiede neanche, guarda. C'erano tutti, l'Urbaes no, è molto buono. È buona? Tu ne stai prendendo sì. Un'altra? E io invece vorrei passare a qualcosa di più sensato. Frivolo. Frivolo, no, che no. Potrebbe essere un Negroni. Qui sta a 4 ore e mezzo, il Negroni è una media di 28 gradi. La differenza idea di frivolezza un po'... Vogliamo fare una cosa intermedia? Parliamo, c'è Chihuahua, Chihuahua, Yorkshire e Maremmano. No. Il problema è andare in discesa. No, io, se vuoi c'ho anche un negroni un Negroni classico che faccio... Dopo c'è la grappa. Esatto. O se no faccio il Negroni pisano. Non perché sono ganzo io, ma io sono lucchese, quindi passiamo torniamo al Bifita. No, ma uso prodotti pisani del tacco. Ma sì, no, ma vabbè, forse il Negroni è troppo. L'americano che gradazione c'ha? Un po' più basso forse. Sì, il vermouth sono 18 gradi, il bitter. Allora prendo un americano. L'americano non ce l'ho normale o pisese? Pisese, dai, va bene. Perché uso vermouth e bitter sempre del tacco. Tanto che adesso ho usato il termine. Vabbè, pisese è più verso Ponzacco, verso Pontedera, Pontedera, ok. No, comunque sono da meno sono, perché c'è l'americano pisano e il... Io voglio l'americano pisese. Perfetto, glielo okay. Faccio. E un'altra etnica. Perfetto. Great stuff. Four tracks. Cheers. To the end of the Western civilization. Yes, which is coming. Just increasingly. Yeah, have you followed what the Saudis did to the journalist in Turkey? Cut it in pieces, yeah? Nate Pace, like Pulp Fiction. Exactly. Yeah, torn into pieces. Mm-hmm. Yes. 15 people have come to take it. To kill somebody and to divide him in different pieces and take it back. Why should it be more convincing than a normal traditional killing? The fact that, okay, you kill them and then you turn them into pieces. What's the effect on the public opinion? I'm very surprised. Because they like the fact that we are talking about this. Yes. Yeah. I mean, the main target must be the other Arab, not just Saudi, the other Arab critics. It's traditional mafia style of... Fear-mongering. So you think it will eventually work? I think it definitely works, yeah. What happens with think twice. Correspondence? what will be the precautions they will take? They will... be trenched into their suites at the Hilton in Baghdad or whatever, or still work on the field as freelancers? Yeah. I mean, journalists not necessarily are in danger, but commentators and people who criticize Jens Salman. So the message is to the public. Especially the ones who have been insiders. I think he's much more afraid of the people who've been close to him, and now they've decided to be against him. So all those millionaires, billionaires who he gathered in that hotel for a while, on top of which the Silicon Valley investor, famous, what's his name? He has shares in almost every Walid Bin Talal, I think. Walid Bin Talal. Also has shares in Twitter, in Uber, in many other places. Yeah, he's dangerous for him. So I think that was a message to all these guys. That's quite frightening. a questa conferenza del Chaos, Chaos Computer Club. Perché sembra che la conferenza poi non gli altri, invece no, passo un sacco di ore. Erano tutti al telefonino. Uno di quelli sulla conferenza aveva questo computer collegato a un trasmettitore che ha iniziato a fare jamming sulle frequenze del cellulare, ha staccato a tutti. E quindi dopo un po' vedevi questi qua che... perfetti sconosciuti. E lui ha fatto la relazione su questa cosa qua, cioè sul fatto che l'unico modo per fare attenzione, lui questa cosa vorrebbe darla alle università, l'unico modo per fare attenzione è uccidere, lui ha disturbato il wifi e le reti cellulari in quella stanza. E quindi... e li vedeva a un certo punto senza dirlo, poi c'è cioè, te ne accorgevi, cioè, poi il tedesco era qua un po', cioè, poi l'hanno accompagnato in questura, no lui era la sua era una specie di performance. Questo è un olandese che va in giro col suo trasmettitore, prima o poi becca quello che gli emenano, però secondo me l'anno scorso lo fa ad Harlem simpaticamente in un barco dove quattro neri molto di una roba fuori, è un progetto lo che corcano. Ha fatto tutto ieri parlavo di questa data, guardavamo dati di biglietti. Please attend tomorrow on the Saturday after your panel. Stay because it will be this short play on Pierpaolo Pasolini that I think you will like. Oh, yeah. Even though it's all in Italian, unfortunately. Yeah. I like Pasolini. You're still working on it. Sì, domani ci abbiamo le prove generali. Io ho già fatto un paio di prove tecniche. Dobbiamo vedere qua. Teatro qua. Ma dove viene fatto? Nella sala sopra. I didn't want to take the big theater because I thought Nicola wouldn't be able to fill it. And I was wrong. Because he's got a big network in Lucca, I'm afraid it would be very difficult to sneak in tomorrow. Sorry, on Saturday. E quella scena, no? Che faccio quella cosa con l'intervista, ma bene che non si veda tutto. Cioè, si capisce e non si capisce. Guarda che ci credono. Non ce l'hanno, Claudio. Dagli un'alternativa. L'altro giorno The Games, che è il sequel dei Barbari. È contro il racconto, quindi mi interessa. Sono interessato. Anche se non siamo d'accordo, però se mi interessa. Ma sai, cioè, mi interessa il, cioè, il contro racconto tipo di dei punto barbari. Di vista. Il punto di vista è interessante comunque. E comunque è interessante anche la capacità di trasferirlo al grande pubblico, che per esempio nessuno di noi credo abbia. Ho visto che ha lavorato anche con dei visual artist, no? Ha delle mappe. Sì, sotto questo aspetto c'è solo da imparare, veramente. Magari nel metodo avremmo qualcosa da dire, ma nel merito avremmo qualcosa da dire, ma nel metodo no. D'altra parte, se ci pensate, non è una cosa molto lontana da un principio per noi molto alto e intoccabile, che è quello legato al suffragio universale e alle democrazie. Alla fine, sulla carta, l'idea che tu fai votare tutti contro di una comunità e vince chi ne fa di più, non si regge, automaticamente saremo oligarchici, come saremmo nel scegliere i libri, vogliamo librare quelli che ne intendono, oppure scegliere i siti, ma non che qualcuno ci dicesse quali sono i migliori siti di cucina. Lì noi siamo tendenzialmente oligarchici, non vogliamo che votino tutti, ma di fatto questi qua ci hanno insegnato che no, fine del movimento politico. I figli è la cosa più importante che c'è, una delle più importanti, cioè decidere chi avrà il potere in questo paese, fare votare chiunque, e il voto di Umberto Eco voleva uguale al voto per lui. E lui dice questa cosa che per me è veramente un po' l'epigrafe di tutto il libro, e disse, ma lui era un po' sattivo, diciamo così, per capirci, erano ricchi, e disse, ma sì, si può provare a cambiare la testa della gente, ma è tempo perso. Ed è la voce che vuole cambiare il mondo. Sì, può cambiare la testa della gente, ma è tempo perso. Prova a cambiare gli strumenti che hanno in mano e cambierai il mondo. E poi trovate in questa frase riassunto tutta una storia di una mutazione. Non una parola, strumenti. E loro hanno fatto esattamente questo, cioè hanno fuso dentro degli strumenti la loro concezione del mondo, quello che loro volevano dal mondo e quello di cui avevano paura del mondo. E l'hanno tradotta in concetti, senza stare a fare molte parole. Tutto ciò che è cambiato, secondo lui, fondamentalmente è dovuto a una serie di intuizioni da parte di alcuni ingegneri privi di qualsiasi cultura umanistica, privi di qualsiasi profondità, che hanno ridotto qualsiasi esperienza di consumo di contenuti a un gioco, impedendoci fondamentalmente di approfondire, tenendoci in uno stato di costante distrazione che ci impedirebbe di fare conti spesso con un minimo di spirito critico, anche con le nostre coscienze, col senso di responsabilità, impedendoci di fare un qualsiasi investimento emotivo, razionale in un racconto, proprio perché siamo in questo costante stato di urgenza, fondamentalmente è tutto più veloce, è tutto più instabile. Solo un paio di domande adesso, non voglio fare una critica ragionata perché sto uscendo ora dal teatro, sarebbe credo ingeneroso. Mi limito a chiedermi se Baricco si ricordasse un'epoca pre-internet in cui le persone non distratte da questi oggetti, da questa gamification di tutto, fossero impegnati in attività nobili, fossero per esempio coinvolti in incontri pubblici nel mondo reale con gli intellettuali. Bene, quello che succede oggi, nonostante questa internet un po' demoniaca e distraente, è che tutti i weekend ci sono almeno un centinaio di intellettuali che riempiono i teatri come lui e rimangono rapiti ad ascoltare, a cercare di dare una spiegazione a quello che sta succedendo, cosa che non mi pare che prima di internet accadesse poi così spesso, anche perché quel ruolo controllato e tranquillo di affabulazione veniva delegato ad un unico strumento, la televisione, che per stessa ammissione di Baricco era qualcosa che ascoltavamo in religioso silenzio, proprio come oggi ascoltiamo, per fortuna, in religioso silenzio questi grandi intellettuali, questi grandi divulgatori. Ecco, questo non succedeva, non c'era questa dimensione partecipata di eventi fondati proprio sulla parola. Non esisteva prima di internet. Tra la storia dell'Iran, l'esperienza di Hussein e come lui vede Salvini e Dino che parla di come Salvini è percepito all'estero. Poi sei arrivata tu e hai rovinato tutto, fondamentalmente. Parla, e adesso si parla di logistica. Di Chiara Ferragni. Come on. No, ok. That's quite something, yeah. Politics. It's similar. It's similar in Italy, politics. No, it was international politics. It wasn't that much. Okay. Tu invece dove sei coinvolto al festival? Domattina solamente, con Popov, Vasilij Popov, su broadcast versus big data, comunicazione politica. E dove si svolge? Alla, credo sempre al teatro alla sala Titta Ruffo. Sì. Allora mi sa che vengo a sentire. Perché lo sei? Così vedo anche come l'hanno vestita. Vedo anche com'è sto famoso schermo di cui tutti mi parlano, dove c'è una regia che secondo loro è capace di passare dalle slide alla diretta. Allora, potrebbe subentrare una sorta di baratto accettabile, cioè io Stato offro al cittadino i migliori servizi pubblici possibili, una città come uno Stato efficiente, pulito, sicuro, dove la quotidianità mi è totalmente tutelata, la vita quotidiana di tutti i giorni mi sembra totalmente tutelata, efficiente, e in cambio tutto sommato ti tolgo la libertà politica, ti tolgo la democrazia. E ho la sensazione che in questa curva della storia questo tipo di baratto sia sostanzialmente accettato anche da grandi masse di popolazione. Cioè, ok, va bene la deriva, una deriva autoritaria di qualsiasi natura essa sia, che sia attraverso un algoritmo o attraverso un determinato sistema politico, basta che mi fai stare tranquillo. E questo tipo di, diciamo, addomesticazione dell'opinione pubblica è molto più complicata poi da scomporre, cioè, perché poi dovresti dire al contrario, sfidando tutte le leggi della psicologia cognitiva, lasciami la libertà democratica, però potresti avere meno efficienza, meno pulizia, meno sicurezza. È un po' una narrativa complicata da far passare in questo momento. I left when I was 25. So I was already grown up. No, I'm very of experience all the things that happened in the 80s and 90s, the war with Iraq. I don't remember much about the revolution because I was 4 when the revolution happened, but I remember that the next years of the revolution quite good, and then the war was terrible. It didn't really affect Tehran much. It was apart from some missiles. Yeah, apart from some missiles towards the end of the war. I remember. Yeah, and yeah, they were very strange, weird times. Even the younger people cannot understand that it was a day, you know, there was a time where you would go to a shop and you would have only one kind of shampoo, one kind of soap. Then everything was rationed. You had to use coupons to buy things. And there are only one TV channel. Il 79. Poi, ecco, abbiamo parlato però anche di cose carine, per esempio, del fatto che le prime apparizioni televisive, tra l'altro a colori, perché erano gli anni in cui arrivava la TV a colori anche da noi, con molto ritardo, in Iran avevano già la TV a colori da 2 anni, perché l'aveva portata... Noi avevamo PC, DC che non ci Pompidou, Pompidou aveva messo il SECAM in Iran. E IRIB, che era la TV di Stato, cominciava a trasmettere prima le robe dello Shah, che era amico, no, del governo francese, infatti poi è riparato a Parigi. E dopo questi raduni incredibili di Khomeini in queste sale con le pale, ve le ricordate? Ciao Andrea, come stai? Ciao Andrea. Giovanni. Giovanni Bocciartieri, allora nell'ordine Luca Garibaldi. Ciao Andrea. Daniele. Gianluigi TD ha detto insopportabile, sì. Penso che sia più noto Paolo. Così. Ha detto insopportabile caratterialmente. Caratterialmente. Da mia moglie. E Claudia Vago, che lavora anche all'organizzazione del festival, e Dino Menguni. Take a seat, perché tanto qui è ancora chiuso. Vale anche per Dino. No, non ci siamo rivisti adesso. Ci siamo gli app.